sento il tempo che corre. Io solitario in quest'ora, il gioco dura quanto io credo, il tempo non mi cambia e lo vedo, passa il giorno sul mio respiro, non cambia ormai più nulla qua in giro. L'astasia è il senso del grande vuoto, si plasma in un passato remoto, ma ora spira un soffio di tempo che porta un'aria di cambiamento, produce quasi un cortocircuito, questo schema infinito, desto dal mio sonno profondo, questo gran silenzio del mondo, mi vesto di radiosi colori, d'un tratto mi ritrovo già fuori. Tratto mi ritrovo già fuori, già fuori.